diamo vita a questa assemblea sulle liste di attesa che ci portano a parlare direttamente del diritto alla salute, perché abbiamo deciso di fare un'iniziativa sulle liste di attesa, perché a parer nostro è un po' la punta dell'iceberg che si porta dietro il malfunzionamento della sanità dovuta ai tagli che nei decenni ci sono stati e si riverberano su tanti tipi di servizi. Abbiamo visto i pronto soccorso affollati, abbiamo visto anche ultimamente che tante cure non vengono portate avanti nel modo più consono. Spesso le persone si sentono da sole davanti alla sanità, specie quando appunto si sentono parecchio male e non trovi risposta. Molto spesso e volentieri sentiamo anche dalle cronache che la gente prende, picchia l'infermiere che si trova davanti perché non ha risposte. Ecco, questo vorremmo cercare di evitare, cercare di dare un punto di vista collettivo che ci consenta di far pressione nei punti in cui lo dobbiamo fare, di mobilitarci e di fare insieme delle pressioni poi alla fine sulla regione, che è quella che gestisce la sanità. I tagli dei finanziamenti, appunto si diceva, negli ultimi 20 anni sono stati tagliati, chiusi 400 ospedali, levati 120.000 posti letto. Negli ultimi 10 anni sono stati tagliati 37 miliardi, contate che nella sanità pubblica ogni anno si spendono 120 miliardi e passa. E capite come questo portafoglio fa gola ogni volta viene tagliato, perché li puoi mettere appunto, guarda caso, anche in questo periodo sulla guerra, che fra l'altro e sull'industria degli armamenti, fra l'altro è un'industria protetta, esentiva, eccetera, eccetera. E si è visto, cronaca ormai tutti i giorni, che dal 7 la sanità passerà un finanziamento dal 7 al 6% per il 2024, mentre gli armamenti un'inversione di tendenza dall'1 al 2%. Ora quel punto percentuale non sarà preso sicuramente tutto dalla sanità, però ti lascia parecchio a pensare. Il privato piano piano sta erodendo sempre più risorse alla sanità pubblica, anche se ci viene venduta per pubblica anche quella convenzionata, ma quella convenzionata ha sicuramente altri costi rispetto a quello che potrebbe essere un budget della sanità pubblica. Poi semmai questo ce ne parleranno meglio i nostri invitati che si presenteranno da solo. E da soli. Negli anni, se si sta a guardare dagli anni 70 ad oggi, sicuramente sono diminuiti rispetto alla popolazione i posti letto, i presidi sanitari, come si diceva prima, e anche le terapie intensive rispetto alla popolazione. E quello che sta succedendo è che questi colossi privati si fanno sempre più avanti, anche se semmai se hai la fortuna di accederci in convenzione ti curano anche bene, però fai conto che crescano queste cliniche di continuo. Corian, per fare un esempio, la multinazionale francese, i francesi in Toscana spopolano anche sull'ATAF e sul servizio di trasporto pubblico, eccetera. E ce l'hanno una trentina in Toscana di queste cliniche e insomma lì muovi parecchi soldi che chiaramente dopo vengono sottratti al settore pubblico. Si calcola addirittura, vedendo un po' i dati che si riesce a ricavare, perché poi ce ne sono una marea, che il servizio di posti letto erogati in quest'anno ha raggiunto quasi il 50% rispetto al pubblico, quello del privato. E appunto alle terapie intensive non è andata meglio, tant'è che tutto il problema c'è stato durante il Covid, ha dimostrato che non solo le terapie intensive ma anche gli ospedali si sono saturati subito, e nonostante ci dicessero visto questa pandemia, si sarebbe investito chissà che cosa nella sanità, tutto questo non è stato, perché continuano i problemi e ci si sente non poco preso in giro. Con questa differenziazione poi a livello regionale è chiaro che le regioni più ricche avranno dei sistemi migliori e quelle più povere meno. E quello si sta succedendo, infatti vedete al sud Italia, dove in Calabria il presidente della regione Calabria ha dovuto chiedere 500 medici a Cuba perché non trovava medici, oltre a esserci lo scandalo che ci sono queste cooperative che affittano i medici a livello proprio interinale e prendono fra l'altro un monte di soldi, e alle volte è notizia scandalistica, però purtroppo è vero, e non hanno nemmeno tutti i titoli per poterlo fare, per cui si sono ritrovati dei medici di medicina estetica a gestire dei pronti soccorsi e non sapevano come affrontare una crisi cardiaca. E questo la dice lunga che c'è da fare qualcosa. Lo stesso il PNRR dice stanzierà 37 miliardi, 20 miliardi circa in medicina e telemedicina, non prevede assunzioni, e per cui anche in questo caso si assiste a uno snellimento di quello che può essere un servizio pubblico, perché se tu mi investi in telemedicina 20 miliardi, me ne hai tagliati 37 negli ultimi 10 anni e in più non assumi nessuno, è chiaro che curare le persone a distanza non sarà l'ottimale. Anche in Toscana i sindacati degli infermieri denunciano la mancanza di 5.000 infermieri, sono in Toscana, per non parlare dei medici sul territorio, circa 700, 200 per il pronto soccorso, e a livello nazionale si parla di numeri allucinanti, 40.000 infermieri e medici addirittura che andranno in pensione da qui a 5 anni e non ne saranno rimpiazzati molto meno, anche perché c'è il numero chiuso all'università. E anche quello è un altro problema, infatti coinvolgere gli studenti, i medici, gli infermieri in tutto questo diventa fondamentale. La proposta infatti che noi ci sentiamo di fare è che si formino dei comitati di lavoratori e di utenti che insieme diano vita a delle mobilitazioni. Ci sembra l'unica cosa da fare, lo abbiamo fatto, qualche nostro compagno del comitato è rimasto anche fra le grinfie della giustizia durante un presidio contro il Green Pass, che per noi è stata il Green Pass e l'obbligo vaccinale, comunque la foglia di fico per un sistema non vicino alla popolazione, senza presidi sanitari, non pronto a curare le persone. Allora ha messo degli obblighi che poi si sono verificati non essere nemmeno fino in fondo utili, perché anche un vaccinato può contagiare. Caso cubano ve l'ho già detto, questo discorso di costruire un movimento per la difesa della sanità pubblica, collegandosi anche con i comitati di base, i sindacati di base, dove noi alle volte ci ritroviamo, e abbiamo messo su insieme alla CUB un sportello tutti i mercoledì dalle 16 alle 19 per raccogliere un po' il malcontento e cercare di organizzarlo un po' come si diceva prima, senza che nessuno si senta da solo e poi si fa giustizia sommariamente da solo picchiandosi, ma un medico però poi non ci sembra la soluzione giusta. E partecipiamo quindi allo sciopero del 2 dicembre indetto dai sindacati di base con concentramento alla Fortezza alle 9:30. E un'altra cosa, anche l'altro giorno sera all'assemblea della CKN, a rilanciare anche questa iniziativa e parteciperemo a tutta la consultazione popolare che stanno mettendo insieme per sapere cosa ne pensa il territorio della loro vertenza, visto che ha diverse criticità e non gli stanno pagando gli stipendi. Pensiamo che tutti questi problemi poi ci riguardano come lavoratori e come persone che comunque vogliono vivere dignitosamente. Finito questo lungo preambolo, passo la parola a Mario Savino, che sarà in grado di presentarsi da solo. È un medico che abbiamo contattato e ci sembrava utile la sua, sentire la sua posizione. Alessandra Rombolà come avvocato e Paola Sabatini come sindacalista storica dentro la sanità. Lavoratrice, ora non più, in pensione. Salve a tutti, un attimo che stiamo qui. Allora, io sì, mi presento, mi autopresento, sono Mario Savino, sono un medico, un urologo, lavoro a Campo Staggia, che è un ospedale che si trova a Poggibonsi, e mi occupo anche di piante, insomma, fitoterapia, insomma, questo è quello che è il mio ambito quotidiano. Però nella chiacchierata che abbiamo fatto con Francesco, insomma, abbiamo condiviso un po' le perplessità sulla gestione del sistema sanitario e mi sembrava interessante poter dare un contributo, insomma, a questo tipo di valutazione dall'interno, da medico, quindi da persona che si trova in effetti a vedere quello che succede all'interno della sanità. Questa immagine è un'immagine che, insomma, un po' rende l'idea di quello che è un concetto di lista d'attesa, di fila, di coda. E l'idea di Francesco è giusta, secondo me, cioè questo confronto deve mettere sul campo tutta una serie di valutazioni, che io spero di dare il mio contributo in questo senso, però in maniera costruttiva, cioè venire fuori da una serata come questa, comunque da incontri, con delle proposte, delle idee, perché effettivamente quando si prende atto poi di quello che non è la qualità del sistema sanitario nel quale siamo immersi, magari viene un po' di disfattismo. Invece bisogna cercare allo stesso tempo prendere atto e trovare anche delle contromisure, degli spunti, delle iniziative per far fronte a questa situazione. Ho inserito anche questa frase perché è una frase che rende bene l'idea anche su chi siamo in generale, perché non tutti sono pronti, appunto, a mettersi in gioco su quelle che possono essere anche delle privazioni sui propri diritti. Questa è una frase di Bukowski: sapevo che le code mi stavano uccidendo, non riuscivo ad accettarle, al contrario di tutti gli altri. Tutti gli altri erano normali, per loro la vita era bella, potevano far coda senza provare dolore, potevano mettersi in coda e starci per sempre. Ecco, questa secondo me è un appiattimento che noi non dobbiamo rischiare di accettare, perché spesso la frase che anch'io sento dire, ma tanto è così, tanto non si può cambiare, che faresti, come fai? E invece questo è già una resa. Se invece siamo qui è perché probabilmente l'idea è di non arrivare a una condizione di resa totale. E faccio un'introduzione per farvi entrare un po' più nel dettaglio. Allora, il nostro sistema sanitario funziona, è basato su questi famosi LEA. LEA è una sigla che è un acronimo che sta per livelli essenziali di assistenza. È un teoricamente è un baluardo importantissimo, perché se leggete nella definizione del governo a livello della pagina del Ministero della Salute, i livelli essenziali di assistenza sono prestazioni e servizi che il servizio sanitario è tenuto a fornire, quindi deve fornire a tutti i cittadini. Quindi è una presa di responsabilità, ma anche un dovere dello Stato, riuscire a garantire alla popolazione i livelli di assistenza sanitaria. Certo, qui poi specifica attraverso pagamento del ticket, gratuitamente, questo lo sappiamo, con tutte le varie modalità che dipendono dal reddito, dall'età, dalle patologie, questo lo sappiamo, però lo Stato, in linea teorica, si assume la responsabilità per ognuno dei 60 milioni di cittadini di garantire questa sanità. Quando sono andato a vedere che cos'era i livelli di essenziali di assistenza a livello di numeri, una delle ultime tabelle, quella che riguarda gli 8 anni dal 2010 al 2018, mi dava questa immagine, e sembra un'immagine fantascientifica, nel senso che se guardate come è posizionata l'Italia, l'adempimento della capacità di rispettare questo dovere da parte dello Stato è praticamente totale nel centro-nord, diventa ovviamente parziale man mano che si scende, fino a trovare delle regioni con le marcate in rosso che sono francamente inadempienti. Allora io ho detto, vabbè, ma che ci vado a fare? Se questo è il livello di quello che dovrebbe essere la qualità dell'assistenza, noi stiamo parlando di una qualità che viene rispettata. C'è un problema perché voi sapete che la capacità di tirare fuori dei numeri è determinata dagli indicatori, e poi vedremo come questi indicatori vengono in effetti aggirati e falsati. Perché se io devo guardare la Toscana è verde, quindi per la Toscana i livelli essenziali di assistenza sono garantiti. Vi dimostrerò poi, spero di farvi capire, che non è effettivamente così nell'atto pratico. Su che cosa si basano questi livelli di assistenza? Su delle classi di priorità, cioè io devo accedere al sistema sanitario. E quando devo accedere al sistema sanitario vengo inserito in una sorta di percorso. Questo percorso ha un livello di priorità a seconda di quella che è la mia necessità. Per la specialistica ambulatoriale ci sono queste quattro classi, quindi l'urgenza, in linea teorica entro 72 ore io dovrei trovare l'accesso, la classe B, che è quella breve, entro 10 giorni, quella differibile, che è la D, entro 30 giorni per le visite, entro 60 per gli accertamenti diagnostici tipo le ecografie o gli esami radiologici, e poi le altre visite che vengono fatte con tempi ancora più dilazionati. Quindi è come se lo Stato ti dicesse: guarda, io ho predisposto una rete di percorsi, a seconda di come viene classificato il presunto paziente, questo percorso gli garantisce le prestazioni nei tempi corretti. Stesso discorso viene effettuato per tutti coloro che devono fare anche interventi, quindi per il ricovero in ospedale preventivo all'intervento. Ovviamente anche qui ci sono degli indirizzi, dei canali, a seconda della pericolosità e della gravità della patologia: classe A entro 30 giorni, classe B entro 60, e così via come tempistiche. Allora, qui siamo nel paese dei balocchi. Se fosse così realmente, non ci sarebbe niente di tutto quello che noi conosciamo, perché chiunque di noi si rapporta con quella che è la prenotazione attraverso il CUP, attraverso le preospedalizzazioni della sala operatoria, sa benissimo che queste tempistiche, queste classi di priorità, che dovrebbero essere funzionali a garantire quei livelli essenziali di assistenza, non ci sono. Io, per dirvene una, per esempio, per quanto riguarda la classe A dei pazienti che vengono inseriti per fare gli interventi, e sono solitamente pazienti oncologici, già qui c'è una sorta di cortocircuito. Perché? Perché dovrebbero essere 30 giorni, dovrebbero cominciare dal giorno in cui il paziente viene, gli viene preparata la scheda di intervento. Non è così, perché in effetti si dice che poi partono questi 30 giorni dal giorno in cui ha finito la preospedalizzazione. Quindi se dal giorno 1 che io vedo un paziente al giorno 30 che si dovrebbe operare non fa la preospedalizzazione, non fa la visita con l'anestesista, tutto scorre, quindi passano due mesi e mezzo. E quindi già la prima classe di priorità viene disattesa. Il senso di quello che vorrei farvi passare è che in effetti, se noi parliamo di liste d'attesa, ci deve essere qualcosa che non torna. Quindi da un lato, ma questo capita in tutti quanti gli ambiti, da un lato c'è la percezione della parte amministrativa, di chi dirige, che si basa sui numeri, e la realtà invece c'è chi vive determinate esperienze, si basa su quello che effettivamente succede. Come mai non c'è disponibilità di prestazioni sanitarie se quei livelli vengono rispettati? Come mai si attende troppo per fare interventi, magari quelli oncologici in qualche modo vengono fatti, gli altri interventi, quelli che non sono oncologici, quelli che non richiedono una emergenza nell'intervento, aspettano. Allora, noi siamo un piccolo ospedale, ma per dirvi, per un intervento di disostruzione prostatica i pazienti aspettano 8 mesi, 10 mesi, che sono delle tempistiche che a me sembrano assurde. Cioè, non è che l'ospedale di New York o il Careggi, per cui diciamo, c'è un'attesa, c'è una folla, che a Campostaggio si diano questi numeri. E ovviamente questo che cosa implica? Implica che si costruiscono dei messaggi sbagliati, perché se io devo rispondere a quel tipo di assistenza, in qualche modo devo far fronte a tutte quelle priorità, e se non riesco a far fronte non capisco come quelle regioni possono diventare verdi se io non riesco a passare sotto quel tipo di lavoro. Quindi l'idea è che da qualche parte si deve formare un imbuto, cioè da qualche parte si stoppa questo processo. Ora, nelle chiacchierate che abbiamo costruito, insomma, prima di questa serata, effettivamente noi ci concentreremo soprattutto sulla parte a valle, cioè su come mai il sistema sanitario non riesce a espletare queste prestazioni. Però effettivamente, riflettendoci, potrebbe esserci anche, e c'è sicuramente, ora poi vi farò vedere anche in che senso, un eccessivo aumento della richiesta. Cioè, quando noi parliamo di una coda si forma perché c'è questa imbutizzazione. Allora, o è aumentata la richiesta delle necessità sia di prestazioni ambulatoriali che di interventi, o è diminuita la capacità del sistema sanitario di assolvere a queste necessità. Purtroppo si sono verificate tutte e due le condizioni, si stanno verificando tutte e due le condizioni. Perché? L'eccessivo aumento della richiesta da che cosa dipende? Allora, qui abbiamo un cardine fondamentale, il medico di medicina generale. Allora, il medico di medicina generale rappresenta il filtro del nostro sistema sanitario. Il nostro sistema sanitario individua attraverso i medici di medicina generale coloro che dovrebbero riuscire a scremare la salute della popolazione, distinguere se la sintomatologia del paziente X è una sintomatologia innocua, potenzialmente pericolosa, oppure una sintomatologia talmente pericolosa da inviare a successivi controlli. Questo filtro, sinceramente, nell'arco degli ultimi perlomeno 15-20 anni si è perso. Quindi una delle motivazioni per cui aumentano le richieste perché manca il filtro. E questo non è una colpevolizzazione, diciamo, del medico di famiglia, perché mi sono confrontato con alcuni di loro. La burocratizzazione dei medici di famiglia è stata un'arma letale. Cioè, la gestione telematica di tutti i certificati, di tutte le prestazioni che devono essere comunicate all'INPS, alla USL, sottrae tempo. se io sono un medico di medicina generale e ho 150 certificati che devo fare entro stasera, perché se non li faccio, quel paziente non può andare in mutua, quel paziente non può richiedere la malattia, quindi li devo fare, e ho 10 persone che aspettano una visita a casa, io devo fare una scelta. Quindi sacrifico le 10 persone a casa, ne vedo 3 magari, le altre 7, pazienza, faranno, perché devo concentrarmi sui 150 certificati. Questo è quello che è successo, cioè dare tutta la responsabilità della gestione tecnica a una persona che deve riuscire a capire le tempistiche e tutto il resto, a parte la non semplicità di questa tecnologia, ma sottrae tempo per fare quello che dovrebbero fare il medico, cioè andare a vedere se una persona sta male, non se una persona ha un timbro su un foglio, ma se una persona sta male. Questo è uno dei presupposti che ha scollato il paziente dal medico. Cioè, quando voi parlate, io penso capiterà a tutti, del medico di medicina generale, l'atteggiamento di sufficienza, dire ma sì, ora figuriamoci, no, non ci vado nemmeno, questo vabbè, devo andare dallo specialista, perché sì, figurati che ci capisce, mi vede 2 minuti e poi mi dirà. Lo stesso medico di medicina generale, quando si trova davanti a un caso da analizzare, non ha il tempo per dire bene, l'ho visitato bene, ora aspetto 2 giorni, lo rivaluto, gli ho dato una terapia. Non avendo questo tempo, anche per una medicina difensiva dice ok, quindi se tu hai 3 problemi, io ti prescrivo 4 cose da fare: ecografia, radiografia, esame. Quindi questo è il moltiplicato, è il motivo per cui l'aumento della richiesta è uno dei motivi per cui noi ci troviamo davanti all'ingolfamento del sistema sanitario. Abbiamo costruito poi nel tempo una cultura che non è basata sulla prevenzione, perché se effettivamente ci fossero dei percorsi seri di prevenzione, uno riuscirebbe già a fare in quel modo lì una selezione della pericolosità delle patologie, perché io mi sono controllato quest'anno, mi ricontrollo l'anno dopo, quando ho un piccolo problema allora sì, vado. Se non faccio prevenzione, al primo problema scatta la necessità di farsi controllare per bene, perché io non ho uno storico, non so se l'anno precedente stavo bene realmente, quindi scatta più che la prevenzione la paura, e sul meccanismo della paura nessuno ha voglia di aspettare la coda della fila per farsi controllare. Questi sono dei ragionamenti, delle motivazioni che aumentano la necessità. Poi noi siamo nella fase tra virgolette post-Covid, quindi ci sono stati 2 anni, questo per rendere più recente la valutazione, 2 anni in cui c'è stata il terrorismo, la demonizzazione sugli ospedali, quindi nessuno aveva accesso agli ospedali. E quindi le persone che anche avevano una capacità di farsi valutare periodicamente, per 2 anni non hanno fatto niente, e ora cercano di recuperare, ma ingolfano il sistema è già sovraccarico e quindi tutto questo aumenta. Come diceva Francesco, qual è uno di questi segnali? Uno di questi segnali è l'aumento di prestazioni improprie al pronto soccorso. Cioè se io ho un timore, quindi ho una paura, ho una patologia, il medico non mi ha controllato, il medico di medicina generale o comunque non mi soddisfa, magari non ho le risorse per andare nel privato, che faccio? Prendo, vado in pronto soccorso e dico io sto male, qualche cosa mi faranno. Questo crea innanzitutto una prestazione impropria, ma comunque un sovraffollamento. Quindi se voi guardate i pronto soccorsi, ci sono anche lì dei codici, i codici verdi e i codici azzurri, che sono quelli di patologie non urgenti, sono tantissimi, si riducono sui codici gialli e per fortuna sono minori sui codici rossi. Questo significa che se io ho tanta gente che arriva per motivi banali, ho battuto il gomito e mi fa male, e quindi vado in pronto soccorso, cioè non ho nessuno che mi valuta prima, vuol dire che quel filtro è completamente saltato. L'altro lato dell'imbuto, cioè la parte bassa, quella che è quella di cui ci occupiamo di più in questa serata, è il motivo per cui si sono sensibilmente ridotte le capacità del sistema sanitario di rispondere alle richieste. Innanzitutto, allora, quello che mi chiedo è questo. Siamo abbastanza nell'era dell'informatizzazione, siamo capaci di fare previsioni, valutazioni statistiche. Allora, non credo sia difficilissimo, io non sono un tecnico, un esperto, ma quando c'è un contratto nazionale si sa, io per esempio devo fare 36 o 38 ore settimanali. Quindi, se io ho un tot di prestazioni e ogni prestazione mi richiede un numero di minuti, 20 minuti a prestazione, so benissimo quanti specialisti mi servono in base alle necessità. Se non li assumo, so benissimo che non riesco a far fronte alle mie necessità. Ora, per un anno va bene, per due anni va bene, ma se il blocco è duraturo, tutto quello che non viene evaso, tra virgolette, si accumula, e quando si accumula crea ingolfamento. Allora dico, come mai non viene fatta un'analisi di previsioni in questo senso, e quando viene fatta non viene facile pensare di dire, ok, vedo che c'è tanta richiesta, investo sul sistema sanitario, perché se un sistema sanitario deve funzionare bisogna investire sul sistema sanitario, e cerco di rispondere alla richiesta. Allora, il dubbio più grande è, ma hanno, io non la reputo così, ma insistono tanto sul chiamare l'azienda, ci sono tutti i DRG che sono i codici che corrispondono alle patologie per avere la retribuzione su quella determinata patologia. In qualsiasi azienda, se io ho una maggiore richiesta, investo. Cioè, se io devo fare 100 computer e ho 3 operai, assumo, perché devo fare 100 computer. Se ho 100 richieste di visite, non assumo. Se ne ho 1000, non assumo. Quindi questo è una critica al sistema, perché non riesce a far fronte non soltanto per l'aumentata richiesta, ma perché non si vedono i tentativi di far fronte in questo senso, gli investimenti, l'aumento delle risorse. E tutto questo porta a, diciamo, al paziente a cercare delle risposte. Quindi davanti a una condizione in cui lui si trova potenzialmente in una condizione di patologia, come fa? Allora, sceglie o la strada di mettersi in coda, oppure sceglie un'altra strada, che è quella della libera professione. Purtroppo, noi la chiamiamo scelta, ma forse, diciamo, tanto scelta non è, perché nella maggior parte dei casi la scelta è vincolata dalle disponibilità. Cioè, se io ho disponibilità, allora mi oriento verso quella che si chiama libera professione. Se queste disponibilità non ne ho, abbasso le orecchie, mi metto in fila e spero che prima o poi mi tocchi la prestazione dell'ecografia, l'intervento e quant'altro. Allora, questo tipo di orientamento, quello della libera professione. La libera professione, innanzitutto, una riflessione va fatta sul concetto di libera. Allora, libera professione quindi vuol dire che chi fa, allora, il lavoro normale è quello da dirigente, non è libero, quindi da dipendente. La libera professione vuol dire che tu sei libero di esercitare. Io comunque tanto bene non ho capito questo concetto. Più che altro non riesco a valutare seriamente come libera la scelta di andare verso la libera professione. Cioè, se io fossi un'azienda sanitaria e avessi sul campo prestazioni con richiesta rossa o ricetta da prenotazione CUP, diciamo entro le 4 settimane, e medico in libera professione entro 3 settimane, è davvero una libera scelta. Cioè, io scelgo di dire, ok, aspetto il mio turno 4 settimane, no, vado da dottor Rossi tra 3 settimane. Perché? Perché voglio andare da dottor Rossi, perché il dottor Rossi mi sta simpatico, perché non voglio aspettare 4 settimane, sono scappato. Ma se la distanza tra le due tempistiche è 6 mesi per un'ecografia o domani sera con il dottor Rossi, questo non è corretto, questa non è una libera scelta. Perché se io sono quel paziente caricato di paura, tra virgolette, perché il medico di famiglia non mi ha visto, perché mi hanno detto che potrei avere qualcosa che non va, mi presento al mio sportello e mi dicono sì, tra 6 mesi si vede che cos'hai, questo non è una libera scelta. Non sto scegliendo di andare dal dottor Rossi perché mi sta simpatico, perché ho paura. E quindi gli metto le mani in tasca e vado dal dottor Rossi. Ora, che questo succeda è palese, che questo venga avallato da un sistema sanitario nazionale non è corretto, perché il sistema sanitario dovrebbe essere capace di far fronte, deve assumersi, abbiamo visto con l'EA, deve assumersi la capacità di rispondere alla salute dei vari pazienti. Se non lo fa e se non è capace di gestire queste liste d'attesa, vuol dire che non sta lui stesso ottemperando a quel tipo di presupposto. Due cose sull'intramenia, giusto per darvi il mio punto di vista, che poi avevamo già condiviso con loro. Innanzitutto è un percorso, diciamo, non perfettamente pulito sin dall'inizio. Allora, quando si firma il contratto di assunzione, ti chiedono se vuoi far parte, se come scelta fai l'intramenia o l'estramenia. Non è la stessa cosa. Cioè, l'intramenia, chi decide di fare intramenia ha comunque una serie di benefici che chi decide di non fare l'intramenia, quindi chi fa l'estramenia, non ha. Per esempio, gli scatti di anzianità vanno per l'intramenia, non per chi ha scelto l'estramenia. La possibilità di fare, tra virgolette, carriera, quindi di avere sia delle posizioni o di arrivare alla dirigenza di una struttura, vale per chi ha deciso di fare intramenia, non per chi fa estramenia. Quindi, se uno viene, diciamo, assunto e non ha fuori da lavorare, non è già parte con una libera professione esterna, è ovvio che viene indirizzato verso l'intramenia. L'intramenia però è un percorso che all'azienda conviene, per questo l'azienda, dal mio punto di vista, non lascia effettivamente scegliere correttamente, perché se l'azienda dicesse l'intramenia e l'estramenia hanno le stesse possibilità, cioè vengono pagati lo stesso dal contratto, possono fare carriera, possono avere posizioni nello stesso livello, uno sceglierebbe. Se invece io metto già una differenza, è ovvio che la maggior parte scelgono quello che ti dà è più redditizio, quello che comunque è più conveniente. Quindi tutta la possibilità di fare intramenia che cosa determina? Determina alla fine un guadagno per l'azienda. Perché? Perché l'azienda, innanzitutto, avendo una serie di medici che hanno scelto, tanti medici che hanno scelto di fare l'intramenia, non deve assumere nessuno in più, perché tanto ha comunque una categoria di persone già disponibili all'interno per fare quello che gli serve. Le persone, i pazienti che al posto di essersi messe in fila scelgono l'intramenia, abbattono in parte quelle liste d'attesa, perché io non mi sono messo in fila, vado a fare l'intramenia e quindi l'azienda in un certo senso non vede allungarsi all'infinito quella lista. In teoria. Poi in più c'è anche un discorso economico, perché la prestazione che il paziente decide di fare in intramenia in parte va allo specialista che fa quella prestazione, ma il 30% rimane all'azienda. Quindi l'azienda ci guadagna due volte, anzi forse anche più di due volte, perlomeno una perché non vede accumulare le liste, due perché prende anche un introito da quello stesso paziente che ha pagato le tasse, che ha deciso comunque di che non ha, diciamo, che si è messo comunque a disposizione, però poi nella necessità, al posto di essere assecondato, al posto di trovare l'azienda che gli trova la possibilità di svolgere la sua visita, se ne va a fare la visita specialistica privatamente. L'altro dato in più è che queste stesse aziende non investono, perlomeno la maggior parte di aziende non investono separatamente per locali e mezzi dell'intramenia. Cioè, se io faccio l'intramenia, magari ho bisogno di un ecografo che usano soltanto gli specialisti dell'intramenia. Non è così, perché l'intramenia viene fatta, non è che ci sono la TAC per l'intramenia e la TAC per quelli normali. La TAC è sempre una. Ma che succede? Che i costi di un'eventuale usura poi ricadono anche su quegli altri. Se si rompe la TAC perché l'hanno usata tanto l'intramedia e quindi l'azienda ci ha guadagnato, ma se quella si rompe ne fanno le spese anche quelli che si erano messi in cura. Quindi c'è proprio una disparità di vedute su questo tipo di atteggiamento. Quindi scrivo chi paga? Poi lo vediamo. Vado a concludere. Che cosa si potrebbe fare o che cosa si fa, che cosa fa l'azienda per ridurre le liste d'attesa? Assunzioni e stabilizzazioni non ne fa, quindi questa è un'idea che potrebbe avere ma non ce l'ha. Fa una cosa che si chiama produttività aggiuntiva, ne avete forse sentito parlare, è una sono queste prestazioni che all'utente, chiamiamolo come all'azienda pace, all'utente sembra che non sia successo niente. Cioè io ho la mia richiesta rossa, chiamo e mi dicono vieni oggi pomeriggio a fare la visita. Dico ma guarda che fortunato, sono stato fortunato, al posto di aspettare 6 mesi vado oggi pomeriggio. La produttività aggiuntiva invece che cos'è? È che è una condizione per cui sempre quelli che hanno firmato per l'intramedia danno la possibilità di fare delle prestazioni senza essere da intramedia, quindi prenotate col CUP, quindi che vengono pagate dall'utente solo con la soluzione del ticket, ma lo specialista che l'effettua ha costi maggiorati, cioè se la parcella o l'orario di un dirigente medico di primo livello sono 26 euro lorde all'ora, si può arrivare ad avere 60-90 euro lorde all'ora. Quindi all'utente la percezione è quella di aver ricevuto un buon servizio. In effetti questo servizio qualcuno lo paga, perché non è che l'azienda si è strutturata per garantirlo in maniera costante. È un periodo in cui rifornisce lo specialista che decide di accettare quel modo lì e quindi riesce ad assolvere ad una parte delle sue problematiche. L'altra modalità è l'esternalizzazione. Non ce la faccio a fare tutto quello che dovrei fare all'interno dell'azienda, non riesco a fare le visite, non riesco a fare le TAC, non riesco a fare gli interventi, che faccio? Chiamo fuori. E quindi spesso, nella piccola Siena succede così, chiamo gli specialisti della clinica privata X e gli chiedo di fare delle prestazioni. Ovviamente al paziente che va nella clinica privata dice guarda che fortunato, mi hanno mandato a fare la clinica, io pago soltanto il ticket, non pago nemmeno niente. Ma lo specialista che è lì, no, lo specialista che è lì stipula una sorta di accordo per cui l'azienda a quello specialista gli paga il di più. E ancora qui, chi è che paga? Poi alla fine... Tutto in produttività aggiuntiva. Tutto quanto... Appunto, le 26 euro lorde. No, sono tutti quanti sotto. 200 euro. Cittadini. Alla fine siamo noi, perché alla fine questi sono soldi che comunque l'azienda dice di avere, ma sicuramente ce l'ha, che però a posto di essere investiti in maniera strutturale, vengono investiti in maniera spot e quindi vanno a sicuramente in parte a compensare un deficit, ma non lo fanno in maniera definitiva, non lo fanno in maniera strutturata e utilizzano queste due metodiche principali per abbassare quella che è la percezione della difficoltà del sistema sanitario a stracciare. Quindi chi paga alla fine pago io, alla fine pago io. E alla fine pago io. Cioè, questo è quello che è un ventaglio, illustrazione di quello che succede. Secondo me di strutture ce ne sono e vediamo appunto se si riesce a costruire qualcosa di valido e di compatto. Grazie. Sì, grazie. Parlare sull'intramedia è interessante anche perché si ragionava anche fosse un sistema virtuoso per snellire le liste d'attesa, ben venga, al di là che costerebbe un occhio, che costa un occhio della testa. Però di fatto poi ti costa un occhio della testa e non snellisce le liste d'attesa. Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessandra Rubolà, faccio l'avvocato e stasera vorrei dare un contributo cercando di capire qual è l'equilibrio e il bilanciamento tra quello che è un diritto fondamentale come il diritto alla salute e i cosiddetti vincoli di bilancio. Perché da un punto di vista normativo e anche tecnico, oltre alle limitazioni che appunto esponeva prima il dottore, molto spesso viene giustificata una carenza delle prestazioni sulla base di una carenza conseguente di quelle che sono le risorse pubbliche finanziarie. Io ritengo che il problema delle liste d'attesa che affrontiamo stasera è un'espressione di queste gravi criticità del sistema sanitario nazionale, che sempre più spesso, come è emerso anche da coloro che hanno parlato prima di me, sembra a tutti gli effetti limitare il diritto alla salute che è sancito all'articolo 32 della Costituzione. Per quanto riguarda i problemi legati alle liste d'attesa, quindi in termini di tempi lunghi di attesa e carenza delle risorse, molto spesso questo comporta che cosa? Di fatto una limitazione di quello che è l'accesso al sistema sanitario nazionale che dovrebbe essere di natura pubblica, ma molto più spesso si sta andando verso una vera e propria privatizzazione. Quali sono le motivazioni che vengono messe a sostegno di queste criticità? Sostanzialmente vengono ridotte e banalizzate a limiti di natura economica, quindi ad una carenza di risorse finanziarie che inevitabilmente si ripercuote sulla prestazione di natura sanitaria. Partiamo da un presupposto di fatto, cioè il diritto alla salute da un punto di vista tecnico normativo non è un diritto condizionato, ma è un diritto fondamentale. È un diritto inviolabile della persona ed è sancito a livello costituzionale, motivo per cui non può sottostare a vincoli di alcuna tipologia, soprattutto di natura economica. Questo perché la sanità in un sistema pubblico non dovrebbe essere a pagamento e non dovrebbe avere un costo. Il tema quindi è come trovare quindi un equilibrio tra il principio di bilancio pubblico, anche questo previsto a livello costituzionale, perché l'articolo 81 prevede quello che è il tema del bilancio, e una garanzia effettiva e non soltanto teorica del diritto alla salute. Cosa succede nella pratica? L'esigenza di bilancio limita e comprime molto spesso il diritto alla salute del cittadino, e le liste d'attesa ne sono un esempio lampante. Questo come mai? Quello che dicevano anche prima i miei colleghi di stasera, cioè se io devo aspettare 6 mesi o un anno per una prestazione, vuoi per la paura, vuoi perché ho diritto di sapere che cos'ho, che cosa faccio? Ricorro a prestazioni di natura privata, dietro pagamento di un compenso, che tuttavia mi danno la soddisfazione di dire vabbè, ma tutto sommato aspetto poco, la mia salute non ha prezzo, me lo scarico dalle tasse, magari ho attivato una polizza sanitaria. E questo sostanzialmente che cos'è? È una compressione del diritto alla salute di natura pubblica. E questo che cosa comporta? Comporta sostanzialmente quindi ad una privatizzazione sempre più forte della sanità. Per avere una garanzia effettiva del diritto alla salute, tutte le disposizioni, come si diceva appunto anche prima, vengono adottate a livello statale, cioè lo Stato deve dare un'indicazione di carattere generale di quelle che sono appunto le prestazioni a livello anche di prestazione essenziale, con delega poi di funzionamento pratico agli enti locali. Questo come mai? Perché nelle nostre istituzioni vige sostanzialmente un principio di prossimità dell'utenza, cioè il cittadino se sta male non può interfacciarsi con lo Stato, si interfaccia con l'ente locale di appartenenza. Quindi sostanzialmente in questo caso vediamo quelle che sono le grosse differenze a livello locale, cioè a livello regionale è palese che in determinate regioni la prestazione e comunque la domanda viene rispettata in maniera più o meno adeguata, in altre si hanno delle realtà locali totalmente disastrose che portano poi a tutta una serie di casi anche di malasanità. In un'ottica un po' particolare possiamo definire la sanità come un mercato, cioè si interfaccia una domanda ed un'offerta. È evidente che attualmente la domanda, che sostanzialmente è l'esigenza della prestazione, supera di gran lunga quella che è l'offerta da parte degli enti locali e dello Stato, che sempre più spesso risulta inadeguata per vari motivi, tra cui la carenza di personale, oppure per vincoli, perché viene ribadito continuamente questo vincolo di natura economica, cioè c'è stato un taglio alla sanità, nel bilancio non mi rientra questa spesa. Quindi su una motivazione di natura prettamente economica si va a ledere quello che è effettivamente il diritto alla salute. Da un punto di vista costituzionale, quali sono brevemente, molto velocemente, gli articoli che riguardano questo argomento? Senz'altro l'articolo 32, cioè la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite per gli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. L'articolo 81, che riguarda appunto il principio del bilancio, quindi il fatto che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto di tutta una serie di circostanze e di fasi. L'articolo 97, che riguarda il fatto che la pubblica amministrazione deve assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. L'articolo 117, che è la ripartizione tra Stato e Regioni di quelle che sono le competenze a livello legislativo. Senza leggervi tutti gli articoli, che chiaramente sono piuttosto lunghi, ce li ho tutti segnati. Da un punto di vista, diciamo, legale, da un punto di vista costituzionale, quali sono i principi che sostanzialmente si interfacciano all'interno di questo argomento? Io ho portato due sentenze della Corte Costituzionale nel quale viene affrontato il tema del bilanciamento tra tutela del diritto e vincoli di bilancio. Il primo caso non riguarda un caso legato alla sanità, ma riguarda un'altra situazione, sempre un diritto fondamentale, però è interessante perché nel 2016 la Corte Costituzionale si è espressa sancendo un principio di portata generale che deve essere necessariamente applicato anche quando si parla di diritto alla salute. Il tema di questa sentenza è esattamente questo, cioè il rapporto tra attuazione del diritto e vincolo di bilancio. Il principio è il seguente, ovvero, e leggo testualmente quello che dice la Corte, è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. Questo cosa vuol dire? Che c'è un rapporto tra queste due realtà, ma non è come viene continuamente ripetuto, cioè il bilancio incide sulla prestazione, è il bilancio che si deve adeguare alla prestazione, che è una cosa ben diversa. Di cosa si occupava questo caso che appunto ha portato la Corte a esprimere questi principi di carattere generale? Sostanzialmente riguardava il fatto che il diritto in questione è il diritto dei soggetti inabili e minorati e il diritto all'istruzione e al loro avviamento professionale. A livello statale abbiamo una disposizione che è la legge 104 del 92, quindi lo Stato interviene dicendo quelle che sono le prestazioni dovute a determinate categorie di soggetti e quindi vengono dettate le linee guida riguardo alla tutela dei soggetti portatori di handicap. A livello regionale, in questo caso, c'erano state delle normative della Regione Abruzzo che avevano introdotto degli articoli che disciplinavano sostanzialmente i limiti all'erogazione di questo servizio in base alle risorse finanziarie. Cosa succede? La provincia di Pescara ricorre al TAR e rileva alcune criticità. Il Tribunale Amministrativo effettivamente riconosce che queste disposizioni normative non erano totalmente garantiste di questi diritti e quindi solleva questione di legittimità costituzionale in relazione a due articoli in particolare. Cosa diceva questa normativa regionale? Sostanzialmente era previsto un contributo pari al 50% della spesa necessaria e documentata garantito dalla giunta regionale alle singole province per il servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap. Poi c'era una postilla nell'articolo successivo che diceva: questo contributo avviene nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa. Quindi sostanzialmente non è un caso legato alla sanità, però il principio è lo stesso, cioè un diritto fondamentale e una disponibilità economica limitata. La provincia di Pescara ricorre e lamenta come di fatto venisse erogato dalla regione un contributo inferiore al 50%, quindi soldi stanziati e destinati ad una determinata circostanza venivano poi di fatto limitati nella sua materiale erogazione. Cosa dice il TAR della regione? sostanzialmente dice che questo articolo 6 di questa legge regionale del 1978 costituisce un illegittimo condizionamento dell'erogazione del contributo alle disponibilità finanziarie di volta in volta determinate dalla legge di bilancio, così da trasformare l'onere della regione in una posta aleatoria e incerta, totalmente rimessa alle scelte finanziarie dell'ente, con il rischio che esse divengano arbitrarie, in difetto di limiti predeterminati dalla legge e che si risolvano nella illegittima compressione del diritto allo studio del disabile, la cui effettività non potrebbe essere finanziariamente condizionata. Quindi, sostanzialmente, c'è una violazione a livello internazionale, per esempio anche della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili. A livello costituzionale c'è una violazione dell'articolo 38 che tutela proprio determinate categorie di persone portatori appunto di handicap o di gravi patologie, dove sostanzialmente gli deve essere chiaramente garantito la possibilità di ricevere una degna adeguata istruzione e un avviamento professionale idoneo alle loro capacità. La cosa interessante è che in questo caso questo servizio di natura pubblica non era stato sostanzialmente negato, perché alla fine queste risorse, seppur limitate, erano sufficienti a soddisfare la richiesta. Quindi in questo caso il Tribunale amministrativo va oltre, perché dice: anche se scala la fortuna che questo è sufficiente a soddisfare, perché si vede che ha pochi ragazzi che usufruiscono di questo servizio, tuttavia dice c'è il rischio che una reiterazione nel futuro di questa situazione porti poi alla compressione vera e propria del diritto, quindi che ci sia un'interruzione, una sospensione di questo servizio. Cosa dice la Corte Costituzionale? Partiamo da un fatto di carattere generale, cioè il legislatore a livello nazionale, e questo anche nella sanità, non si deve limitare ad introdurre regole programmatiche destinate a rimanere lettera morta, deve assicurarsi che vengano attuate mediante l'adozione di normative ad hoc e a contenuto sostanzialmente pratico, cioè della serie: è inutile che mi dici il ragazzino portatore di handicap ha diritto di studiare se poi non gli dai il pulmino che lo porta a scuola. È questo quello che è interessante. Quindi va capito, in primo luogo, quali di questi diritti rientra tra i diritti fondamentali. Senza dubbio, in questo caso sì, come senza dubbio vi rientra l'articolo 32 del diritto alla salute. Quindi, sostanzialmente, facendo appunto un discorso di carattere anche pratico e logistico, viene ribadito questo fatto, cioè partiamo dal presupposto che l'articolo 38 tutela il diritto delle persone disabili in abito allo studio e al lavoro. Il diritto di trasporto dello studente è strettamente connesso al diritto dello stesso a ricevere un'istruzione, perché, ripeto, senza il pulmino che lo porta a scuola, questo non studia. Dunque, in questo caso, imporre un limite non solo al vincolo di bilancio, quindi comunque una risorsa limitata, ma anche il fatto che l'ente locale, in autonomia, possa decidere anche di autoridurlo a sua volta, incide seriamente sulla realizzazione del diritto in termini di effettività. Ecco quindi che qui si entra nel tema del cosiddetto costo dei diritti, cioè i diritti inviolabili della persona hanno un prezzo, hanno un costo? Sì, ma non è giusto. La Corte prosegue e qui vengono enunciati questi principi che poi troveremo anche in una seconda sentenza che invece si occupa proprio del diritto alla salute. E dice: l'indeterminatezza del finanziamento determina un vulnus all'effettività del servizio di assistenza e trasporto, come conformato dal legislatore regionale, con conseguente violazione dell'articolo 38 della Costituzione, dal momento che la garanzia del 50% della copertura del servizio di assistenza ai disabili appartiene alla conformazione della struttura e dell'organizzazione del servizio stesso. Ecco quindi che torna in ballo quello che si diceva prima. Vero che c'è una ripartizione di competenze a livello legislativo tra Stato e Regione, però se la Regione non mi prende l'iniziativa di imporre e di sostanzialmente andare a disciplinare quella che poi è la pratica dell'attuazione del diritto, allora a quel punto sostanzialmente si ha una compressione di quello che è il diritto fondamentale. Cosa vuole dire poi la Corte? Cioè che è sbagliato un vincolo del 50%, quindi c'è un problema a monte anche a livello nazionale, o che è sbagliato legittimare il rischio che si possa erogare un contributo anche inferiore? Questo non è chiaro nella sentenza. Detto questo, si riesce a comprendere molto chiaramente che, ad esempio, per quanto riguarda diritti fondamentali e incomprimibili, ci sono senza dubbio quelli previsti a livello costituzionale e non debbano sottostare ad alcun limite di spesa. viceversa un diritto sempre socialmente rilevante ma accessorio anche a livello di prestazione, quindi una prestazione sostanzialmente anche sanitaria non necessaria, non fondamentale ma ulteriore, può sottostare a dei vincoli anche di natura economica. Infatti qua si entra nell'ambito di quello che la spesa, in che senso? Cioè come si determina se una spesa ha natura obbligatoria o facoltativa? In base a questo, cioè facendo una scrematura di quelli che sono i diritti fondamentali e che quindi non dovrebbero sottostare ad alcun vincolo di bilancio. Ecco qui che quindi riparte il principio enunciato dall'articolo 31, che però la Corte Costituzionale lo interpreta in un senso molto chiaro, cioè la necessità non è quella di attuare il diritto in base al bilancio, ma di adattare il bilancio in base al diritto. Quindi sostanzialmente davanti a delle risorse di natura economica che vengono finanziate con i contributi pagati dai contribuenti, appunto, quindi con imposte e con tasse, partendo da questo presupposto bisogna fare in modo, e qui subentra anche il ruolo dello Stato e del sistema sanitario nazionale, che vengano garantite quelle che sono le prestazioni fondamentali. Quindi sostanzialmente diciamo che la conclusione a cui arriva la Corte è che davanti ad un diritto fondamentale non può esserci un limite in termini di bilancio. Viceversa, le spese non strettamente legate alla prestazione del servizio, ma che riguardano fatti accessori, possono rientrare nelle cosiddette spese facoltative, che quindi incontrano il limite della legge di bilancio, questo anche per evitare che ci sia uno spreco della risorsa pubblica. La seconda sentenza, che secondo me è interessante ed è anche più calzante visto il tema un po' di questo incontro, di questa assemblea, è la sentenza 62 del 2020. Il caso riguarda una legge regionale della regione Sicilia del 2008. In questo caso è lo Stato che impugna la normativa regionale e il problema riguardava varie questioni, tra cui anche una relativa alla sanità. Allora, la Sicilia è una regione a statuto speciale ed è l'unica regione che gode di un apporto finanziario statale in materia di assistenza sanitaria. La Corte Costituzionale, ricevute le parti, chiede dei chiarimenti su quali siano i criteri di determinazione e di perimetrazione dei LEA, cioè i livelli essenziali di assistenza. Dai dati forniti che cosa emergeva? Una forte criticità sulla gestione di queste risorse finanziarie da parte della Regione e sostanzialmente non c'era alcuna coerenza tra flussi finanziari e la finalità a cui sono destinati questi flussi. In pratica cosa mancava? Totalmente una predeterminazione delle risorse da destinare ai LEA e delle relative spese ad essi destinati. L'articolo 117 della Costituzione, così come modificato nel 2001, che cosa prevede nella ripartizione di competenza legislativa Stato-Regioni? Introduce espressamente l'enunciazione dell'obbligo di garantire i livelli essenziali a livello statale nelle prestazioni concernenti i diritti sociali. Tra i diritti sociali, senza dubbio, ci rientra l'articolo 32, che è il diritto alla salute. Quindi, che cosa viene detto in questo caso dalla Corte Costituzionale? I LEA non sono altro che un'espressione dell'attuazione del diritto alla salute, perché si torna lì, è inutile continuare a parlare di diritto in maniera astratta, bisogna poi trovare una portata concreta. Viene quindi ribadito il principio che sostanzialmente abbiamo già detto all'inizio, cioè una volta che da un punto di vista normativo viene identificato il nucleo invalicabile delle garanzie minime per rendere effettivo il diritto alla prestazione sociale di natura fondamentale, questo non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali. Come si attua quindi il diritto alla salute? Va parametrato alla persona. Alla persona sia intesa come individuo sia nella sua collettività. Ecco quindi che in determinati casi il servizio sanitario e ospedaliero in ambito locale sono gli unici strumenti utilizzabili per assicurare il fondamentale diritto alla salute e qui si torna a quello che dicevamo prima, cioè lo Stato mi deve garantire le prestazioni minime, ma a livello locale, a livello regionale, deve essere poi messo in atto tutto un sistema a livello pratico che assicuri la possibilità di poter effettivamente godere di quelli che sono i diritti legati alla tutela della propria salute. Quindi sostanzialmente è interessante vedere che anche in questo caso cos'è il diritto fondamentale? È un diritto che il cittadino deve vedersi garantito sia come individuo sia nell'ambito di una collettività, senza creare degli squilibri a livello statale e qui si torna al discorso delle criticità e delle disparità tra le varie regioni. Quindi sostanzialmente qua viene ribadito l'ambito di competenza, cioè Stato si assicura prestazioni e risorse, regioni devono organizzare e articolare sul territorio garantendone l'erogazione. Serve quindi, e viene ribadito, un principio quando si parla di sanità pubblica e di vincoli di bilancio, di collaborazione tra lo Stato e la Regione nel rispetto delle reciproche competenze. E questo è fondamentale perché sostanzialmente è lo Stato che deve dettare le linee di carattere generale, ma se poi non c'è un risvolto pratico a livello anche locale e vicino al cittadino, sostanzialmente viene compresso quello che è diritto. Quindi sostanzialmente lo Stato predispone questi strumenti idonei alla Regione, che a sua volta deve gestire le risorse in base a determinati criteri. Quindi nel momento in cui lo Stato eroga dei contributi a livello finanziario, la Regione deve utilizzare questi soldi per un fine specifico, non può sostanzialmente abusare e poi trovare sostanzialmente la scusa di dire no, ma la legge finanziaria, la legge regionale, quando abbiamo steso il bilancio non ci rientravano, perché sono soldi che sono destinati. Quindi sostanzialmente la garanzia della prestazione deve fare sì conti con le risorse pubbliche e dimensionare il livello di prestazione in termini di sostenibilità economica, seguendo un criterio quindi di ponderazione. Detto questo, i livelli essenziali di assistenza non devono assolutamente sottostare a questa ponderazione, perché la loro compatibilità con le risorse è già fissata in sede normativa. Quindi si torna lì. Cioè, lo Stato deve garantire, lo Stato nel momento in cui eroga anche a livello locale dei finanziamenti a livello pubblico, la Regione deve a sua volta destinare e utilizzare queste risorse solo al fine di garantire quelli che sono i livelli essenziali di assistenza. Quindi qui la Corte Costituzionale ribadisce quello che dicevamo prima, cioè bisogna dividere costi necessari, quali quelli dei LEA, e le altre spese sanitarie, che tutto sommato, non per minore importanza, è giusto anche che possano sottostare al principio e ai limiti della sostenibilità economica. Qui cos'era successo? La Sicilia aveva fatto una legge finanziaria e una legge di bilancio che prevedevano un meccanismo finanziario totalmente contestato dallo Stato, perché sostanzialmente non c'era la destinazione adeguata di queste risorse. Ecco dunque che, poi vado a concludere, possiamo richiamare quelli che sono due principi precedenti, richiamati sempre a livello costituzionale, che è quello detto prima con la sentenza del 2016, che la garanzia del diritto incomprimibile, dei diritti incomprimibili, è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. Quindi quando si sente dire ma non ci sono abbastanza soldi, ma sono stati fatti tagli, bisogna partire dal presupposto che è il diritto che mi detta il bilancio e non il contrario. E quello di leale collaborazione tra Stato e Regione, cioè il legislatore predispone gli strumenti idonei alla realizzazione e attuazione dei LEA, perché ripetiamolo, siamo in un sistema sanitario pubblico, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale, impegnando le regioni a collaborare nella separazione del fabbisogno finanziario destinato a spese incomprimibili da quello afferente ad altri servizi suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità economica. Concludendo, è chiaro che queste gravi problematiche che sono emerse parlando questa sera sulla gestione delle risorse, se continuano a rimanere irrisolte o se le regioni continuano sostanzialmente a recuperare sfruttando la scusa, perché poi di fatto è una scusa o comunque la motivazione dei limiti di bilancio sulla negazione della prestazione, porterà di fatto ad una privatizzazione del sistema sanitario. E quindi da un punto di vista anche secondo me normativo è utile portare a conoscenza anche di persone che chiaramente non sono tecniche della materia, oltre che le problematiche pratiche a livello anche medico ospedaliero, come diceva prima il dottore, anche quello che effettivamente deve essere l'interpretazione a livello normativo e costituzionale, per evitare che ci sia una strumentalizzazione di quelle che sono le regole di carattere generale o i principi disposti dalla Costituzione. Grazie Alessandra, anzi questa cosa ce la dai, la facciamo girare anche a livello, se c'è anche qualche compagno del Silia. E che si voleva dire? Che sulla carta ci abbiamo tutti i diritti di sto mondo, poi in pratica se la gente non si muove non c'è niente, cazzo. Quindi è questo un po' il tentativo, è questo che, qui metto un attimino il centro della discussione anche di stasera, che si vuole fare questo combinato lavoratori utenti, con gente praticamente poi si spende non solo a capire le cose, come si sta facendo stasera, ma andare a volantinare, a coinvolgere quello accanto, eccetera. Un po' è successo anche stasera, sto tantam, lo continuiamo a fare anche con colleghi, chi lavora dentro il sistema sanitario ancora di più, chi non lo fa è uguale, perché tanto ci casca, cioè, si spera di no, però prima o poi qualcosa ti tocca fare, al di là che poi c'è tutto il discorso della salute in generale che coinvolge anche il territorio, l'inquinamento, eccetera, però, e quindi anche quella sarebbe prevenzione che gli ospedali dovrebbero fare, però diciamo di già sarebbe sufficiente che quando mi ammalo c'è qualcuno che mi cura per bene. Scusate, grazie Paola. Ma siccome sono state dette tante cose, io volevo solo fare dei flash che poi ci servono magari per la discussione, anche per quello forse si potrebbe fare, per darci delle prospettive. Allora, il punto, quando Mario diceva prima e poi l'ha ripreso l'Alessandra, il discorso del bilancio, no? Vabbè, noi si sa che dal 90, vabbè, io ho cominciato a lavorare in un'unità sanitaria locale e sono finita di lavorare in un'azienda, vabbè, quando ho finito di lavorare in un'azienda, ma avevo cominciato in una unità sanitaria locale, che era il concetto della riforma sanitaria, che doveva essere tutt'altra cosa da quello che è ora. E dove è partita questa cosa? È partita nel 92 con la riforma di Lorenzo, che ha trasformato appunto quello che doveva essere il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, ma anche da una riforma sanitaria, diciamo abbastanza di esempio anche per tante altre nazioni europee, vabbè, l'ha trasformata nelle aziende. Però un'azienda, come diceva prima Mario, cosa dovrebbe fare? Io ho un tot di operatori, so che lavorano 36 ore la settimana, molti più anche ce n'ho, so che fanno queste prestazioni, ogni prestazione dura tot, dovrei sapere più o meno il fabbisogno qual è. Ma non è nemmeno così, perché in realtà non è così, perché se no ci sarebbe appunto le liste d'attesa. Quindi, le aziende lavorano sul discorso del bilancio, quindi non lavorano sul dire il bisogno è questo, io devo fare tot, devo rispondere a tot bisogno e mi serve tot personale. No, il concetto è diverso. Io ho questi soldi a disposizione, farò quello che mi c'entra con questi soldi. E qui gli esempi che facevi te sono abbastanza, diciamo, sono delle sentenze, no? Però teniamo conto che si potrebbe anche provare a fare delle cose su questo piano, no? Lanciare anche delle vertenze anche legali sulla anche con dei casi, perché poi la vertenza legale va fatta sulla persona, no? Va bene, c'è anche le class action, si può fare anche le class action. Comunque, diciamo, dove si dice ma è il bilancio, è i soldi a disposizione che possono dire se io ho diritto o no a un diritto appunto inalienabile, qual è quello della salute, quindi questo è anche una delle cose che si può lanciare, no? Quindi ecco appunto il vincolo di spesa. Questi vincoli di spesa si sa che dal 2010, no, che è partito le politiche di austerità europee, ovviamente a fare la pappardella perché è inutile, però che l'hanno portato anche nella nostra Costituzione. La nostra Costituzione c'ha l'articolo 32, però nel 2012 è stato introdotto il vincolo di bilancio per i servizi pubblici e per la sanità. E quindi tutte le volte ci diciamo, ma i soldi sono questi. Che prospettiva ci sa oggi? Cioè le stanno discutendo, si sentite tutte le sere alla televisione, la prospettiva è che il fondo sanitario, nonostante la pandemia, nonostante si sia detto che bisognava incrementare perché si è speso troppo poco in questi anni, ora ci si rimangia tutto e si sta dicendo che invece si taglierà ancora sulla sanità, perché si sta prevedendo di passare, ora i dati, insomma ora ogni tanto non è forse neanche tanto importante dirlo, ma comunque dai 7% del prodotto interno lordo nel 2022 si arriverà nel 2025 al 6,1, che fra l'altro il 6 è il limite che l'OMS dice al di sotto, insomma non si può, non è garantito proprio il diritto alla salute in nessun modo. Quindi questa è un po' la prospettiva della finanziaria di ora. E il PNR si è citato un po' meglio, no? 37 miliardi, si è detto, no? 2 anni fa la pandemia, 37 miliardi in meno alla sanità, troppi tagli e così via, però col PNR alla sanità ne sono andati 19 e di questi 19 niente è previsto per il personale, sono tutti da investire o per la telemedicina, perché i dottori, appunto, come tu dicevi te, non è che il dottore deve visitare il paziente e quindi avere, no, ora si è imparato questo strumento, con il Covid, no, tutto è tutto fede, quindi si investiranno nella telemedicina tutto a distanza, il più possibile e così via. Nelle strutture, ma il personale niente. Quindi questo per dire bilancio, risorse e così via. Poi volevo dire uno spunto sul discorso che tu dicevi delle eccessive richieste, no? È uno spunto sindacale. Allora, non bisogna dimenticarsi che in tutti i contratti sono state introdotte le assicurazioni private, va bene? Perché in tutti i contratti nazionali, compreso quello della sanità, che è veramente una cosa assurda, pensare che il lavoratore della sanità ha l'assicurazione per garantirsi la salute, la sanità in un servizio esterno con l'assicurazione. Quindi questa è una cosa che tra l'altro porta anche all'eccesso di prestazioni e tu dici te, all'eccesso di richieste, perché io vedo, no, mi capita che i collaboratori mi vengano lì con quei pacchetti che le varie aziende hanno, no? Perché poi chiaramente sono assicurazioni, chi lavora nelle cooperative c'è un'assicurazioncina un pochino più che copre un po' meno, chi lavora in un settore un pochino più che guadagna un po' di più, insomma c'ha un'assicurazione migliore. E ti fanno i pacchetti, no? I pacchetti delle prestazioni, cioè uno anche se non ha bisogno di nulla c'è il pacchetto e ti fa il check-up di tutto. Questo incrementa un eccesso di prestazioni, non è che dà più salute lavorare in questo modo. Quindi volevo metterlo un elemento in più rispetto a quello che tu dicevi te. L'intramenia, l'estramenia. Allora, intanto una cosa, è vero, chi il dottore sceglie se fa l'intramenia e l'estramenia, potrebbe anche scegliere di non farle nessuno di due e di lavorare solo per il pubblico, perché non è che ha l'obbligo di scegliere di lavorare in una o un'altra, c'ha l'interesse a lavorare in una o un'altra, ma non c'ha l'obbligo, quindi potrebbe essere benissimo che sceglie di fare solo il lavoratore pubblico. E qui si entra nel discorso dei lavoratori, perché da questo, diciamo, come dire, intramenia, produttività aggiuntiva e così via, non ci entra solo un discorso di guadagno per i medici, ci entra anche per i lavoratori del comparto. E su questo hanno comprato anche i lavoratori. Io bisogna lo dire, ex lavoratrice della sanità, tu lo dici anche te, ancora lavoratrice della sanità, cioè hanno comprato lavoratori, perché chiaramente i contratti, anche ora che loro hanno rinnovato della sanità pubblica, per non parlare poi dei contratti dei servizi appaltati, che vabbè sono il 30% meno di tanti, cioè lavoratori dei servizi appaltati lo sanno benissimo. Però diciamo chiaramente gli stipendi sono quelli che sono, no? E quindi chiaramente entrare in un meccanismo di produttività aggiuntiva in qualche modo fa comodo un po' a tutti, no? E quindi con questo hanno comprato anche un po' il consenso dei lavoratori, come l'hanno comprato sul discorso della burocratizzazione, cioè sulla richiesta di una serie di compiti burocratici che poi servono soltanto a dimostrare l'obiettivo di budget, che poi l'obiettivo di budget non è mai la salute delle persone, ma appunto è di budget, quindi il risparmio che l'azienda riesce a fare su quello che non fa ai pazienti, perché è questo, va bene, è sull'obiettivo di budget, su queste, ora perso il filo, nel senso su queste cose qui, ecco, si compra un po' anche i lavoratori, perché poi si vengono un pochino messi in questo meccanismo, no? Bisogna dimostrare quello che faccio, perché devo dimostrare il numero di prestazioni, perché poi se ho fatto tante prestazioni di conseguenza avrò qualcosa che mi ricasca sullo stipendio alla fine dei 6 mesi o di un anno e così via. E questo è il motivo anche per cui è difficile anche mobilitare i lavoratori, però bisogna anche provarci e bisogna un pochino però scardinare anche questa logica di consenso. O volevo dire due parole sulla Regione Toscana e entrare un po' sul discorso delle liste d'attesa. Allora, la Regione Toscana È vero, c'è lo Stato che ha deciso di tagliare prima l'Europa, poi l'Italia e così via. La regione Toscana nel 2012, più realista del re, ha tagliato più di quello che gli aveva detto il governo. Perché? Perché nel 2012 c'aveva il buco di bilancio di massa, no? Ci sono i massesi che lo sanno bene. Quindi fecero questa delibera 1235, la devo richiamare perché da quella deriva anche tante delle cose che ci sanno oggi in Toscana. 1235 e tagliò più posti letto, per esempio in Toscana 3,15 posti letto ogni 1000 abitanti, mentre il governo aveva detto 3,7, ma in Toscana se ne tagliò ancora di più nel 2012. L'accorpamento dei distretti, ora vedo lì Luca che faceva parte di un servizio che fu chiuso proprio per l'accorpamento dei distretti sanitari, invece di esserne tre doveva essere accorpato in uno, no? Ci sono state delle lotte perché nel 2012 ci siamo mossi, si è fatto le manifestazioni perché non fossero chiusi questi distretti, si è fatto delle cose, si è ottenuto anche qualcosa, devo dire, perché ora siamo lì a Firenze, c'è cioè, il presidio di Sigismondo Santa Rosa doveva essere chiuso. Santa Rosa c'è sempre perché si è mossa la popolazione, perché ci siamo mossi un pochino tutti, quindi non è che quando ci si muove qualche cosina si ottiene anche, noi bisogna uscire un po' da questa rassegnazione. E poi dopo nel 2015 l'accorpamento delle aziende sanitarie, ce n'erano 12 e ora ce ne sono 3. Allora la conseguenza di tutto questo poi sulle liste d'attesa è che se io vo a prenotare, c'ho anche la fortuna di trovare il posto magari nel servizio pubblico, magari però sto qui e lo trovo il posto appunto, lo trovo nell'area vasta a V, perché dicono che il rispetto dei tempi della lista d'attesa è quello, lo puoi trovare nella V, nell'area vasta, quindi l'area vasta sono 3 aziende sanitarie. E quindi questo è anche la conseguenza di questo accorpamento. Anche su questo accorpamento si fecero tante proteste e vabbè, questo è andato comunque avanti, si era raccolta anche tante firme, una petizione popolare, poi modificarono leggermente la sera dell'ultimo dell'anno, in maggio del 2015, modificarono leggermente la delibera, per cui questa petizione andò a decadere, non era più valida perché aveva modificato le parole della delibera. E quindi diciamo il discorso dell'accorpamento. Vi voglio dire una cosa recente proprio sul discorso delle privatizzazioni, per esempio della ASL Toscana Centro. L'ASL Toscana Centro sta lavorando a una delibera, la 1139 del 10 ottobre, che io ora non mi ricordo, ma forse Luca l'ha studiata meglio di me, la doveva studiare meglio di me. Una delibera che praticamente prevede una manifestazione di interesse per i privati. Dice: noi come azienda sanitaria non ci se la fa a coprire una serie di 18 o 16 branche, non mi ricordo quanti sono, 18 branche e specialisti, non ce la facciamo. Chiediamo a dei soggetti privati se hanno interesse a fare queste prestazioni per l'azienda sanitaria. Ecco, e così sarà, perché probabilmente se non assumono. Ecco, torniamo al discorso assunzioni, appunto, le assunzioni sono state bloccate per anni, sono tuttora bloccate, ci sono delle graduatorie aperte, io l'ho guardata ieri, per esempio la graduatoria degli OS, dove c'è più di 1000 persone in lista d'attesa di essere chiamate, ditemi se non manca il personale, manca il personale, no? Nell'ASL Toscana Centro mi hanno chiamato 70 in un anno, nella Sud-Est 2, nella Nord-Ovest mi pare 14, l'ho guardata ieri al giornale, quindi... Cioè, ci sono le graduatorie, c'è il personale che potrebbe, perché è vero che per alcune figure manca anche il personale, i medici e gli infermieri non si trova tanto, però gli osse per esempio ci sono, ma non vengono chiamati neanche prima. Quindi anche la pandemia diciamo, ha fatto sì che i privati ci abbiano ancora guadagnato, la stessa ASL del Toscana Centro aveva fatto la convenzione con il SILAB e andavo tutti i tamponi e pure i laboratori ci sapevano, no? Però mancava il personale. Quindi ecco, ora questi sono solo degli spunti così. Ora volevo dire due parole sulle liste d'attesa, perché c'è questa delibera della regione del 2019, mi pare, perché praticamente quello slide che ti avevi messo te prima, no? Che nella richiesta ci può essere urgente, breve, no? E c'è dei tempi da rispettare. Nelle altre regioni, diciamo, la legge diceva: se non viene rispettato questi tempi, nessuno lo sa, però ve lo dico perché noi si lavora anche con tanti comitati che stanno facendo un lavoro anche di pubblicizzazione di questo. Nelle altre regioni succede che se non viene rispettato il tempo, la persona può prendersi l'appuntamento nell'intramenia e l'ASL è obbligata a fargli pagare soltanto il ticket. La regione Toscana ha fatto una cosa diversa nel 2019, ha fatto una delibera e dice: se non viene rispettato il tempo previsto nella ricetta medica, potete chiamare un numero verde e noi vi troveremo il posto. Ma chi lo sa che potete chiamare un numero verde? Ecco, ve lo diciamo noi stasera. C'è un numero verde che si può chiamare, quindi noi faremo anche questo sportello perché vogliamo intasare questo numero verde. E questo numero verde da chiamare, e in qualche modo il posto lo trovano. Come fanno a trovarlo? Probabilmente, come tu dicevi te, con la produttività aggiuntiva, penso, non lo so, non lo so. Ecco. E quindi questa è anche una cosa pratica e si può cominciare a fare, però c'è anche un problema a monte, perché ci vorrebbe che le richieste mediche fosse fatte per Pelino per chiamare il numero verde, perché ci deve essere il codice di priorità corretto, perché se il medico non mette il codice di priorità non si fa nulla. E lì la fretta dei medici, il fatto che non hanno il tempo di stare lì, e così spesso magari la richiesta stessa non è conforme e quindi ci si comincia a rinnovare subito. Quindi questi sono un po' gli spunti pratici e penso si potrebbe anche cominciare a lavorarci, diciamo, anche per delle, come sportelli, fermo restando che poi ci vuole una mobilitazione un pochino più forte per ottenere le risorse, che è un diritto, perché le risorse, appunto, non si può legare un diritto alla salute a un vincolo di bilancio, e quindi credo che bisogna continuare con le lotte perché venga fatto le assunzioni e perché i servizi rispondano a quello che verrà rispondere. Allora, grazie qua.